Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Staremo insieme fino alle 11 oggi, due ore per parlare ovviamente anche noi e proseguire questa lunghissima diretta non stop che si è occupata e si occupa dell'elezione alla Casa Bianca. Sapete, Barack Obama è il 44esimo presidente degli Stati Uniti, democratico, e di quello che cambierà, di quello che è la misura storica di questo cambiamento vogliamo parlare oggi anche con voi, ovviamente con le vostre telefonate. Cercheremo di capire in queste due ore anche concretamente che cosa propone Obama nei vari temi. Intanto saluto il ministro degli esteri Franco Frattini. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, inizieremo da lei questa chiacchierata, facciamolo subito dopo aver sentito come sono aperte le borse, perché ovviamente c'era grande attesa e c'è grande attesa anche a sapere come hanno reagito le borse italiane e europee alla nomina di Obama. Allora, Deborah Rosciani, come hanno reagito? Allora, cominciamo con i mercati asiatici, che hanno festeggiato la schiacciante vittoria del candidato democratico Barack Obama alle presidenziali USA. I mercati vedono nel presidente nero il simbolo del cambiamento. Stamattina il Nikkei ha chiuso con un rialzo del 4,46% in Giappone, l'Hang Seng di Hong Kong più 3,67%. Strada differente invece per quello che riguarda l'apertura europea, ma del resto le borse europee hanno vissuto una vigilia dal punto di vista appunto dei rialzi molto intensa, per cui stamattina ci sono delle inevitabili prese di beneficio. Parigi sta perdendo il 2%, Francoforte l'1,41%, l'S&P MIBA Piazza Affari meno 1,48%. Abbiamo però già le indicazioni che arrivano dai futures degli indici di borsa americani, che ugualmente stanno brindando alla vittoria di Barack Obama. Il Dow Jones sale a qualche ora dall'apertura di quasi il 3%, il Nasdaq del 3%, anche lo Standard & Poor's dovrebbe, almeno secondo le anticipazioni di adesso, aprire con un progresso di quasi 4 punti percentuali. L'euro sul dollaro quota stabilmente a 1,28,20, questo al momento la situazione, ci riaggiorniamo più tardi. E allora, alle 9:11 minuti, ministro Frattini, è davvero un cambiamento storico come qualcuno ha già detto da più parti? Ma in primo luogo mi lasci dire che il neo presidente Obama merita davvero di cuore le più sentite congratulazioni per la sua elezione, congratulazioni mie, del governo italiano, e certamente anche le merita per avere impostato una campagna elettorale diciamo facendo ritornare un po' quel sogno americano come l'obiettivo da raggiungere, come quella grande autorità morale e non soltanto militare e politica degli Stati Uniti d'America nel mondo, e anche perché ha dimostrato in realtà con i fatti che gli americani, questo grandissimo paese, hanno scelto quello che per loro era il miglior presidente, hanno deciso così, ed è giusto ovviamente che sia così, non lo hanno fatto influenzati, come molti dicevano, dal cosiddetto fattore razziale. Il presidente Obama sarà un presidente che farà l'interesse, sarà il presidente di tutti gli americani. Devo dire, mi è piaciuto moltissimo, pensando un po' al diverso clima italiano, quando il senatore McCain come primo commento ha detto Barack Obama sarà il mio presidente. E guardi, su questo, ministro, ha anticipato un po' quanto è distante in questo l'America da noi, ma forse anche dagli altri paesi, voglio dire. Beh, l'America è davvero uno straordinario paese. Chi parlava di declino americano con queste parole di McCain in qualche modo è stato sconfitto. Chi pensava che l'America non fosse capace di una grande riscossa nel momento più difficile della crisi economico-finanziaria ha sbagliato, e anche chi pensava che l'America non sapesse ritrovarsi intorno a colui che gli americani hanno ritenuto il miglior presidente. Noi ci siamo interrogati qui in Europa, ci sono stati scritti fiumi d'inchiostro, lunghe conversazioni in tutte le maniere per decidere noi quale fosse il miglior presidente, e lo hanno fatto gli americani, come era ovvio. Senta, il fatto che sia il primo nero alla Casa Bianca è questo sicuramente un dato di portata storica che pone nella storia la data di oggi, secondo lei? Pone certamente direttamente nella storia la data di oggi, anche se francamente io vedo un filo ideale tra l'elezione oggi di Barack Obama e quello storico discorso molti decenni fa di Martin Luther King, che in fondo lanciò in quel momento un messaggio che il sogno americano non era un sogno per i soli bianchi, era un sogno per gli americani, per i cittadini dell'America. In fondo quello che fa grande l'America è che i cittadini giurano sulla loro bandiera, e questo francamente è un grande messaggio, lo dico con grande sincerità, lo dovremmo imparare un pochino anche noi europei. Ciò detto, è chiaro, un presidente come Barack Obama sarà il segno della discontinuità anche in questo, anche se francamente nelle grandi linee di politica internazionale io non credo che ci saranno dei cambiamenti davvero epocali. E a questo proposito, Ministro, è vero, secondo lei, ha già detto, credo che l'ha detto ieri, ma insomma oggi sì. Obama è una certezza, insomma, ha detto se sarà eletto Obama, oggi possiamo dire con Obama presidente, sì, ci chiederà un maggiore impegno soprattutto in Afghanistan. Sì, io ne sono convinto, sì, ne sono convinto perché lo aveva detto in campagna elettorale, francamente lo aveva detto anche McCain, ma Obama lo aveva detto con maggior convinzione, facendo un'analisi che io condivido. L'Iraq è paradossalmente più vicino a riprendere in mano il futuro, il proprio futuro, la propria sicurezza. L'Afghanistan è più lontano, quindi una strategia d'uscita dall'Iraq oggi è immaginabile, infatti il presidente Bush l'ha negoziata con il governo iracheno. In Afghanistan dobbiamo fare di più. Io lo dico con grande franchezza, l'Europa che festeggia Obama deve sapere che l'Europa sarà chiamata ad essere produttore di sicurezza e non più soltanto consumatore di sicurezza. In altri termini, Obama credo giustamente ci chiamerà ad assumere le nostre responsabilità in misura maggiore. Ma anche con, vuol dire, maggiore numero di soldati, per esempio? Ma l'Italia a questo punto ha le carte in regola, siamo tra i paesi che impegnano più uomini, ci sono però paesi europei che questo non l'hanno fatto. Io direi di sì, sarà il momento per questi paesi di dimostrare una solidarietà atlantica come l'ha fatto l'Italia, questo è evidente. Senta, Ministro, come ha scritto oggi Silvio Fagiolo sul Sole 24 Ore, e il dato di fatto è così, il governo Bush che usciva, il presidente Bush era, in termini di popolarità, insomma, ai minimi storici come percentuale. Secondo lei l'elezione di Obama non è anche una sconfessione di alcune linee della presidenza Bush? Ma guardi, io non lo credo, sarebbe ingeneroso e anche sbagliato liquidare 8 anni di presidenza Bush dicendo sono stati errori, è arrivato al 20% di consensi. È chiaro che anche McCain, come tutti sanno, aveva sin da prima di essere il candidato repubblicano criticato il presidente Bush, e questo è legittimo farlo, ma io devo dire francamente, avendo seguito tutti gli 8 anni del presidente Bush, che vi sono stati dei momenti in cui il mondo è cambiato, cioè con l'11 settembre ad esempio, e la reazione americana è stata quella di raccogliere una grande coalizione internazionale che ci ha permesso di andare avanti. Quindi non liquidiamo superficialmente 8 anni, che certamente giudicherà la storia, ma insomma non possiamo fare un'alzata di spalle e dire vabbè, questa è la risposta. Sarebbe sbagliato, ripeto, perché lo stesso McCain si proponeva alcune linee di azione che non convergono con quelle dell'attuale presidente Bush. Qualcuno dice però Barack Obama tende troppo al protezionismo anche nei confronti dell'Europa. Questa cosa non la preoccupa? Io non lo definirei protezionismo, lo definirei con un'espressione che credo debba seguire anche l'Europa: difendere gli interessi dei cittadini più deboli. Quando noi diciamo in Europa che vogliamo un intervento pubblico, come ha spiegato molte volte Tremonti, per difendere i pensionati, per difendere i risparmiatori, quelli che hanno i mutui che costano troppo, per evitare l'invasione di prodotti contraffatti da paesi orientali e asiatici, noi non facciamo del protezionismo, difendiamo l'interesse delle aziende europee, dei cittadini europei, e così farà il presidente Obama quando ha già annunciato di voler intervenire con il pubblico nell'economia, non per cancellare l'economia di mercato, ma per superare un po' questo mercatismo selvaggio che ormai l'abbiamo visto, è esploso col crollo di Lehman Brothers. Una delle ragioni che hanno portato i democratici, perché la vittoria di Obama è una vittoria personale, non anzitutto del Partito Democratico, ma insomma è la crisi economico-finanziaria in cui il senatore McCain, portatore di visioni di liberismo più avanzato, insomma si è trovato con cittadini che gli chiedevano: va bene il liberismo, ma dinanzi al crollo dei mercati finanziari chi ci protegge? E Obama dice: vi protegge lo Stato. A me non dispiace affatto, non è protezionismo. Ministro, senta, per concludere, si è eletto, negli Stati Uniti è stato eletto quello che viene definito, insomma, l'uomo più potente del mondo, la democrazia più influente del mondo. Dall'altra parte del mondo, in un paese del mondo, il Congo, c'è una crisi umanitaria in atto di cui nessuno o pochissimi si occupano, nella quale muoiono tantissimi bambini, ci sono malattie, c'è una situazione catastrofica. E allora, insomma, tutti gli occhi sono sempre puntati sui paesi che contano, i paesi influenti. E il mondo dovrà fare i conti sul fatto che c'è questo squilibrio effettivamente molto molto forte, per cui muoiono a centinaia, migliaia persone in un paese africano e nessuno sembra che se ne curi. Sì, certamente dovremo fare i conti con questo, dovrà fare i conti il Presidente degli Stati Uniti, che certamente con Barack Obama avrà una sensibilità tutta particolare alla povertà e alla disperazione del continente africano, ma dovremo fare i conti noi europei, dovrà fare i conti il G8, dovranno fare i conti i paesi ricchi del mondo. L'Italia presiederà il G8 il prossimo anno, a partire da gennaio, quindi è sulle spalle del presidente Berlusconi un peso gravissimo. Io credo che sul Congo noi dovremo intervenire con degli aiuti umanitari più efficienti di quello che sia accaduto negli ultimi giorni e, se occorre, accompagnarli con delle truppe, con dei militari che portino gli aiuti umanitari a destinazione, perché qui non si parla di mandare una forza militare europea, non c'è consenso su questo in Europa, ma l'idea di accompagnare un convoglio di aiuti umanitari per evitare che cada in mano ai predoni, questo certamente sarebbe utile. Ministro, nel salutarla e nel ringraziarla, l'ultima domanda è un po' piccata, visto che molti giornalisti l'hanno notato, insomma, quasi soprattutto nel centrodestra, a salire quasi sul carro del vincitore. Un paio di giorni fa il ministro Gelmini che ha detto: per la scuola mi sono ispirata a Barack Obama, insomma, guardare a Barack Obama non è stato un po' un salire sul carro di quello che si profilava essere il vincitore, ora vincitore lo è stato? Ma guardi, Barack Obama non è il leader della sinistra contro il leader della destra, non ripetiamo questi schemi europei. Noi abbiamo condiviso, alcuni di noi hanno alcune linee di azione del programma elettorale del senatore Obama, oggi presidente degli Stati Uniti, lo abbiamo detto. Spero che la sinistra non voglia il monopolio anche nel sostegno alle buone idee. Se ci sono delle buone idee, ripeto, l'idea di un intervento pubblico per sostenere risparmiatori e consumatori, Tremonti ne ha parlato 6 mesi fa, il senatore Obama l'ha fortemente corroborato questo pensiero in America durante la sua campagna elettorale. Dovremmo dire che ce lo rimangiamo, ma scherziamo, abbiamo delle coincidenze oggettive. Io avevo anche detto, in tutta onestà, l'idea di una Lega delle Democrazie promossa dal senatore McCain era un'idea che mi piaceva molto, ma insomma addirittura il monopolio sulle idee dei candidati presidenti, questo mi pare un po' troppo, ma fortunatamente l'America è un grande paese dove lo sconfitto dice: il presidente è il mio presidente, ci dividiamo su chi ha pensato prima di sostenere Obama, ma per carità, perdere queste tra cose. L'altro tra poco lo sentiremo anche McCain. Io la ringrazio, ministro, di essere stato con noi. Franco Frattini è il ministro degli esteri italiano, ovviamente. E allora io voglio andare negli Stati Uniti, sia dal nostro Sergio Nava, che insomma stiamo chiamando un po' agli straordinari. Sergio, ciao, ovviamente da Chicago, dove è piena notte. Tra l'altro io voglio salutare anche il professor Gianluca De Leo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno De Leo, ci parla tra l'altro anche lui da Chicago, dove è in questi giorni, però in realtà lui insegna in Virginia italiano, tra poco ci spiegherà qualcosa. Sergio, prima voglio chiederti, insomma, se è un po' attenuata la festa, voglio dire, la gente è andata credo anche a dormire a Chicago, oppure no, c'è ancora un'atmosfera molto gioiosa? Innanzitutto buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Sì, la festa si è decisamente attenuata, anche perché ormai sono passate più di 2 ore dal clou di quella dei festeggiamenti, ancora qualche reduce per le strade, io tornando in albergo l'ho trovato, che sono scene tra l'altro molto, molto belle, le persone si incontrano, i sostenitori si incontrano e urlano Obama, si abbracciano, quindi ancora qualche piccolo strascico c'è, ma diciamo la grande ubriacatura è finita. Che cosa si prevede da domani, voglio dire, cioè, c'è già previsto qualcosa? Obama farà qualche iniziativa particolare, oppure adesso sappiamo ci sono una serie di giorni prima, a gennaio sarà l'insediamento ufficiale? Sì, l'insediamento ufficiale sarà il 20 gennaio, a fine dicembre sì, invece ci sarà diciamo l'elezione formale con i grandi elettori. Diciamo che insomma, essendo l'elezione freschissima, in realtà non c'è nulla di scritto, nulla di ufficiale, perché ovviamente fino a poche ore fa nessuno poteva dire chi avrebbe vinto, anche se i sospetti erano forti. Probabilmente Obama comincerà fin da subito a lavorare sulla propria squadra di governo, partendo forse anche dall'economia. Probabilmente lo farà da Chicago, però dire ora quello che succederà è effettivamente troppo presto. Questo per sicuramente. Ora si festeggia solamente. Allora, Gianluca De Leo, come detto, da 7 anni vive negli Stati Uniti e insegna tra l'altro nel campo della sanità medica, management della sanità medica in Virginia, la Old Dominion University. Si trova adesso a Chicago, ma voglio dire, De Leo, la Virginia per esempio è stato uno di quegli stati chiave sul quale si sono concentrate le attenzioni e che alla fine ha vinto Obama. Anche lì ci può spiegare, insomma, da italiano che vive lì da 7 anni, la portata del cambiamento storico che ha vissuto? Certamente, innanzitutto buongiorno Alessandro e grazie per avermi chiamato. Io questa mattina verso le 7 del mattino ho accompagnato la mia ragazza a votare nella Virginia e poi mi sono trasferito con un aereo qua a Chicago, dove domani do un meeting. E ho avuto l'opportunità di vivere questa esperienza meravigliosa in downtown Chicago e sono arrivato intorno alle 9:30, proprio quando la CNN ha informato che la Virginia aveva appunto vinto per solo circa 1 o 2 punti percentuali sopra. Obama aveva vinto su McCain, c'è stata la folla ovviamente era molto contenta, e subito dopo ho dato l'annuncio che Obama aveva vinto il posto al Presidente degli Stati Uniti d'America, e credo che sia un cambiamento che l'America stesse aspettando e che gli americani sicuramente volevano dopo gli 8 anni dell'amministrazione Bush. Da questo punto di vista, Gianluca, visto che lei insegna e si occupa del campo della sanità e noi vorremmo parlare anche fino alle 11, siamo in diretta, degli aspetti concreti anche, perché sennò si parla solo del trionfo, ma poi cercando di capire cosa potrà cambiare. La sanità è uno di quei temi che in America fa molto discutere, spesso si dice dal di qua dell'oceano in maniera anche un po' frettolosa, in America se non hai un'assicurazione ti lasciano morire per strada. Ecco, non è proprio così, però sicuramente c'è un grande dibattito. Da questo punto di vista, sulla sanità, la vittoria di McCain e la vittoria di Obama rispetto a McCain cosa comporta in positivo? Sicuramente in positivo comporta che Obama ha dichiarato che aiuterà milioni di persone che in America non hanno un'assicurazione sanitaria a poter accedere ai servizi erogati dagli ospedali. Non è vero che in America se non si ha un'assicurazione non si viene coperti, non si viene curati, però certamente che se non si ha un'assicurazione medica non si può accedere a dei servizi sanitari adeguati. Questo Obama è stato un punto chiave della sua campagna elettorale e adesso si tratta di mettere in pratica quello che ha promesso. Obama ha focalizzato su un change, che era necessario. Adesso credo che gli americani stiano aspetteranno di vedere cosa sarà questo cambiamento. Però diciamo questo cambiamento in questo senso, cioè estendere a un maggior numero di persone la copertura sanitaria, questo è nel programma di Obama? Questo è nel programma di Obama e sono sicuro che Obama troverà delle persone con esperienze e riuscirà a mettere in pratica questo progetto. Questa cosa. Veramente non è semplice da fare. Comporta anche dei costi, ovviamente. Ovviamente dei costi che devono essere assorbiti da tutta la società, da tutte le persone americane, però bisogna tenere presente che avere un numero così alto, parliamo di decine di milioni di persone che non hanno un'assicurazione sanitaria, che non possono accedere alle assicurazioni mediche, crea dei problemi, crea dei costi a tutta la popolazione. Ma insomma, diciamo che il programma di Obama, un po' anche negli altri aspetti che toccheremo da qui alle 11, è un programma che secondo molti è un programma sicuramente costoso, cioè secondo molti è sicuramente costoso in alcuni aspetti e per questo molto ambizioso. Io ringrazio Gianluca De Leo, ovviamente così come Sergio Nava, visto che vi abbiamo anche costretti alle ore piccole, sono le 2:30 di notte a Chicago dove vi trovate. Prima degli ascoltatori voglio salutare i nuovi ospiti, a cominciare da Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Così come voglio salutare il professor James Walston, ben ritrovato professore, voglio ricordare direttore del Dipartimento Relazioni Internazionali all'American University of Rome. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora sentiamo Valdimiro da Arezzo, eccoci qui, buongiorno Valdimiro. Buongiorno finalmente a tutti. Mi congratulo innanzitutto con il popolo americano per la coraggiosa scelta. Io sono molto speranzoso e ho grandi aspettative e mi aspetto che le scelte di Obama siano coerenti con le aspettative, penso, non solo del popolo americano, ma di tutto il mondo. Un lancio deciso di investimenti, di nuove tecnologie per le energie rinnovabili, per la ricerca, per tutto quello che può fare pensare a un futuro migliore per i nostri figli e che abbiano finalmente una finestra su cui affacciarsi con ottimismo. Io penso che il nuovo presidente degli Stati Uniti faccia delle scelte coraggiose anche per quanto riguarda gli uomini e che possano portare avanti questa politica di investimenti in cose che riguardano tutti noi, difesa del suolo, difesa delle acque. Insomma, la questione soprattutto ambientale, mi sembra di capire, Valdimiro. Ma io guardi, penso che sia anche una questione economica, perché sì, beh, sono legate. Queste cose qui, a differenza del nostro governo che scommette ancora una volta colpevolmente sul nucleare, io penso che possiamo cambiare il mondo. Guardi, su questo Valdimiro, la sua idea è chiara, di questo ci occuperemo anche nella seconda parte, più avanti nelle 11, di certo, cioè anche di ambiente, di che cosa propone Obama, cosa proponeva McCain, effettivamente per dirla in maniera brutale, poi ovviamente i programmi sono più complicati, ma McCain voleva un forte ritorno al nucleare, Obama propone un grande investimento di 150 miliardi di dollari anche per sviluppare le energie alternative, il solare, eolica, eccetera, ma ne parleremo anche più avanti. Per uscire fuori dal coro invece, Sergio Romano, io ho visto che c'è questa enfasi giustamente nel voler celebrare questo giorno storico e allora io voglio fare una provocazione e le dico, Romano, come hanno scritto per esempio ieri Lutwak, parlando di Obama, l'ha definito una persona costruita a tavolino da un'elite di intellettuali, senza programma, senza concretezza, se un'illusione, un fenomeno mediatico. E allora, cos'è Barack Obama? Ma non credo che si possa dire un fenomeno mediatico. Obama ha costruito se stesso, non è stato costruito da altri. Abbiamo visto crescere nel corso di questi ultimi mesi un personaggio che evidentemente viveva di una propria energia, delle proprie esperienze. Naturalmente è un grande punto interrogativo perché nessuno sa esattamente di quali doti disponga, di quali capacità tecniche, organizzative, amministrative. Non ha mai dato nessuna prova in questo campo e rappresenta da questo punto di vista indubbiamente un'incognita. Ha vinto soprattutto perché gli americani erano stanchi della presidenza Bush è stato enormemente favorito dalla crisi del credito, perché è inevitabile che in momenti come questi gli Stati Uniti siano più attratti da quel candidato che promette maggiore attenzione per i ceti non favoriti, per le fasce basse della popolazione, che promette lavori pubblici e grosso modo una maggiore sensibilità sociale. Questo è tipico del Partito Democratico. È accaduto, per fortuna per lui, per fortuna per Obama, dopo la sconfitta della Clinton, perché non sono sicuro che Obama avrebbe vinto se la crisi del credito fosse scoppiata prima della disfatta di Hillary Clinton nel corso della campagna per le presidenziali. Credo che se la crisi del credito fosse intervenuta prima, la Clinton sarebbe parsa più credibile agli elettori americani di quanto non sia Obama, ma comunque la fortuna giova anche in questo. Ma secondo lei è davvero un giorno di cambiamento storico? Prima avevamo il ministro Frattini in apertura, cioè cambierà davvero qualcosa oppure no? Ma io credo che certamente cambierà qualcosa. Cerchiamo di non perdere comunque il senso delle proporzioni e dell'equilibrio. Quando avremo fatto i conti alla fine, constateremo probabilmente che Obama ha vinto per il 51%+ del voto popolare contro il 47%+ di McCain, quindi non è una vittoria travolgente. Il sistema elettorale americano è quello che sappiamo, il presidente è eletto dai grandi elettori e la vittoria di Obama dal punto di vista politico-costituzionale è evidente. Detto questo, l'America rimane grosso modo spaccata in due. Non è grave, gli americani sanno perfettamente che basta avere un voto in più per essere legittimati a governare e nessuno contesterà il diritto di Obama a governare. Detto questo, dovremo anche cercare di capire a questo punto quali saranno le reali capacità di autonomia, di manovra del presidente in una situazione in cui i condizionamenti vengono da più parte. Insomma, cerchiamo di evitare questi entusiasmi, soprattutto per un altro paese, perché non dimentichiamo che poi alla fine è il Presidente degli Stati Uniti. È il Presidente degli Stati Uniti, farà gli interessi degli Stati Uniti che non sono sempre i nostri, che sono anche molto spesso diversi dai nostri. Questo investimento di speranze sulla elezione di un Presidente che è eletto da altri mi sembra qualche volta un po' puerile, se devo dire la verità. Vediamo se concorda su questo il professor Walston. Insomma, siamo, giustamente si è detto, si elegge l'uomo più potente del mondo ogni 4 anni. Però davvero c'è troppa aspettativa nella figura, in questo caso, di Barack Obama, ma come era in passato degli altri presidenti? Certamente che c'è una grossa speranza su Obama in tutto il resto del mondo, questo l'abbiamo visto in tutti i sondaggi e nella grande manifestazione a Berlino, ed è chiaro da molti mesi che tutto il resto del mondo, soprattutto in Europa, tifava molto di più per Obama che non per McCain. È anche vero, credo, che in questi ultimi 3-4 mesi ci siamo accorti molto chiaramente che Obama non è il grande uomo di sinistra, il grande uomo della rivoluzione. Lui è andato nel centro, probabilmente metterà nel suo gabinetto uomini del Partito Repubblicano e non cambierà in modo radicale, drastico, né la politica interna né la politica estera. Mi permetto anche di non essere d'accordo con l'ambasciatore a proposito della sua mancanza di esperienza è organizzativa. Il solo fatto di aver gestito e organizzato la campagna elettorale in modo esemplare per 2 anni, per essersi creato, come diceva l'ambasciatore, non è stato inventato né dai media né dalle elite di Washington, e anzi direi che è più il suo uomo, il proprio uomo, che non George Bush e forse anche qualche altro presidente. Però è chiaramente è costretto, condizionato dalle circostanze degli Stati Uniti e del governo. C'è una famosa battuta di Truman di 50 anni fa, quando è stato eletto il generale Eisenhower, e diceva: povero Ike, andrà nella stanza ovale e pensa che se dice fai qualcosa, fai così, fai cosà, e sarà fatto. E non è così. Un ascoltatore, Andrea da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti della trasmissione. Allora, io chiamavo perché parlando con le persone un po' giro tanto per lavoro e commentando un po' su, diciamo, le preferenze Obama o McCain in Italia, mi è venuta in mente questa considerazione: tutte le persone con cui parlavo o erano pro Obama o erano contro, ma tutti quelli che erano contro, la ragione era perché lo vedevano come un uomo di facciata. E mi è venuta in mente questa qui, è proprio una considerazione che penso sia tipica italiana, cioè una persona giovane, nuova, che viene fuori dal nulla, si pensa sempre che sia una persona di facciata messa lì da qualcun altro. E temo che questo possa essere il motivo per cui in Italia sia veramente difficile riuscire ad avere un cambiamento che, diciamo, analogo a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Va bene, la ringrazio Andrea. Da qui, dopo il traffico, voglio fare ancora una domanda, un paio di domande a Sergio Romano sul cambiamento, insomma, voglio dire, il messaggio che ha dato McCain, che poi ascolteremo, è straordinariamente e così incredibilmente lontano dal nostro modo di pensare la politica, per esempio. Sergio Romano, che messaggio di cambiamento c'è anche nelle elite, nelle classi politiche americane, che per esempio noi in Italia ci sogniamo, voglio dire, cioè la presenza di un Barack Obama, che fino a qualche anno fa era, diciamo, tra virgolette sconosciuto, e ora diventa presidente americano, rispetto a quello che vediamo noi in Italia come politica? Ma qui c'è un doppio messaggio, c'è un messaggio naturalmente per noi, per le classi politiche europee più vecchie, più inclini a mantenere il potere per lungo periodo, più riluttanti a cederlo ai giovani. Direi che il messaggio è indubbiamente diretto, per esempio, all'Italia, non certo alla Spagna di Zapatero o alla Francia di Sarkozy e nemmeno alla Gran Bretagna. Vale soprattutto per i paesi in cui la rotazione al vertice del potere è particolarmente lenta. Poi c'è un messaggio straordinario, questo sì, questo è importante, questo è molto importante, indipendentemente dalle qualità professionali di Obama. Raddrizzerà enormemente l'immagine degli Stati Uniti nel mondo. Non dimentichiamo che in tutti i paesi emergenti esiste un partito anti-americano molto forte, e che naturalmente esistono anche coloro che non fanno parte di quel partito, ma che nel corso di questi ultimi anni, grazie alla pessima presidenza Bush, non hanno veramente potuto esprimersi. Il partito anti-americano, per così dire, occupava tutto lo spazio politico e aveva buoni argomenti per farlo. Adesso a questo punto il partito meno incline ad assumere posizioni negative nei confronti degli Stati Uniti è enormemente rafforzato da quello che sta accadendo in America. Un nero, un afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti, come minimo questo dimostra che l'America è perfettamente in grado di cambiare, che è una democrazia capace di pagine pessime come quella della Patriot Act, la legge varata da Bush sì, immediatamente dopo l'11 settembre, ma anche capace di grandi manifestazioni di tolleranza, di liberalismo, di apertura, come la straordinaria carriera di un ragazzo bianco-nero in questi ultimi anni. Voglio dire, questo è un messaggio. Messaggio forte sicuramente. Io la ringrazio Sergio Romano per essere stato con noi e vorrei chiedere invece al professor Walston, visto che ce lo chiedono gli ascoltatori, quali sono le lobby economiche che hanno sostenuto e sostengono Barack Obama? Da dove ottiene il suo potere, il suo sostegno, soprattutto dal punto di vista delle grandi lobby economiche? Lui è riuscito a innovare, a creare un'innovazione fortissima negli Stati Uniti, prendendo soldi. Lui è riuscito a raccogliere più fondi di qualsiasi altra campagna elettorale americana nella storia, soprattutto dai piccoli donatori. Perciò invece di essere di dover essere riconoscenti alle grandi industrie, sia belliche, sia di agricole, sia di altre industrie, lui ha un debito diretto con migliaia e migliaia di persone che hanno dato piccole somme. Detto questo, ci sono anche i sindacati, ci sono anche varie industrie che danno soldi, appoggiano sia i democratici che i repubblicani, ma non mi pare che lui sia in particolar modo indebitato politicamente a qualsiasi interesse. Lui avrà la possibilità di agire relativamente indipendentemente dalle pressioni. Vincenzo da Foggia, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere, grazie per la possibilità che mi dà per esprimere questo quesito. Volevo chiedere cortesemente, per quanto concerne le elezioni di Barack Obama, quali saranno i vantaggi per l'intera comunità mondiale, oltre che statunitense, sul piano occupazionale, quindi degli emarginati, deboli e quant'altro, sulla sicurezza mondiale, e infine se la sanità migliorerà, considerato che da quelle parti insomma la sanità lascia desiderare. Sì. Lascia desiderare forse è una parola un po' forte. Comunque, Vincenzo, della sanità abbiamo già parlato, della questione sicurezza e occupazionale io me le tengo lì come domande, nel senso che, come detto, stiamo in diretta fino alle 11, quindi avremo anche un'altra ora e parleremo anche con esperti di geopolitica internazionale, esperti militari, a capire cosa potrà cambiare, quindi anche sul fronte della sicurezza. Io prima però vorrei farvi ascoltare, perché ve l'ho preannunciato e su questo vorrò il parere del professor Walston prima di salutarlo e chiudere questa prima ora, vorrei farvi ascoltare cosa ha detto McCain, lo sconfitto. Ascoltate le parole di McCain e cercate di immaginarvi se un politico italiano potrà mai dire quello che ha detto McCain. Grazie a tutti, amici, per essere qui in questa fantastica notte in Arizona. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Il popolo americano si è pronunciato e lo ha fatto in modo chiaro. Poco fa ho avuto l'onore di chiamare il senatore Barack Obama per congratularmi con lui per essere stato eletto quale nuovo presidente del paese che noi tutti amiamo. Nel difficile contesto in cui si è svolta questa campagna elettorale, il suo successo in solitaria si è guadagnato il mio rispetto per la sua abilità e la perseveranza. È riuscito a fare ciò, ispirando la speranza in molti uomini d'America che una volta erano convinti di avere poca influenza nell'elezione del presidente degli Stati Uniti. È una cosa che io ammiro profondamente e lo applaudo per esserci riuscito. Questo è un caso di storia. Riconosco il significato particolare che questo ha per gli africani d'America e l'orgoglio speciale che c'è stasera. Questa sera, più di ogni altra, ho nel cuore nient'altro che amore per questo paese e per tutto il suo popolo, sia che abbiano appoggiato me o il senatore Obama. Io prego il Signore affinché guidi il mio rivale, che sarà mio presidente, e faccio appello a tutti gli americani, come ho spesso fatto nel corso di questa campagna, di non disperare per le attuali difficoltà, ma di credere sempre nelle promesse e nella grandezza dell'America, perché nulla qui è inevitabile. Gli americani non mollano, noi non ci arrendiamo mai, non ci nascondiamo dalla storia, noi facciamo la storia. Grazie. Dio vi protegga. Dio protegga l'America. Allora, professor Walston, quanto è distante in questo l'America da noi, no? Voglio dire, ha parlato di onore di aver chiamato Obama, il mio presidente, lo ammiro, ammiro quello che il significato per tutta la comunità afroamericana. Che aggiungere? Ci sono due cose. Uno è, con un sistema presidenziale, quando hai avuto una specie di duello per mesi e mesi, in un certo senso per anni, se non c'è un avvicendamento, una specie riattaccamento dei rapporti dopo il duello, è molto, molto pericoloso per il paese. E gli americani l'hanno quasi sempre fatto, perché non puoi andare avanti, non puoi governare un paese che è diviso, e loro hanno avuto una divisione che ha creato una guerra civile tremenda, ed è proprio questa guerra civile che si comincia a superare con l'elezione di un americano nero che è uno dei più, i segni più potenti del superamento della divisione degli Stati Uniti. Non sarà completo, però è un enorme passo avanti. Perciò, in un senso, il discorso di McCain di accettazione è quasi ordinaria amministrazione, era sempre comunque commovente. Questo sicuramente. Io la ringrazio, professor Walston, per essere stato con noi. Il professore dirige il Dipartimento Relazioni Internazionali all'American University of Rome. Voglio salutare il professor Massimo Teodori. Buongiorno, professore. Buongiorno. Insegna storia delle istituzioni degli Stati Uniti d'America a Perugia. E così come voglio salutare Gianni Silvestrini, che è direttore scientifico di Kyoto Club. Buongiorno, Silvestrini. Buongiorno a voi. Parleremo un po' di ambiente, così ci concentreremo anche nelle cose pratiche, nei programmi di Obama a questo punto, con Silvestrini. Allora, un ascoltatore lì da un po', e quindi lo ringrazio e do la parola. Lucio da Verona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Beh, ma McCain può dire quello che dice per la vittoria di Obama, perché sa che non cambierà niente, cambieranno le briciole sulla sanità, sull'inquinamento, certo, ma la sostanza, la torta dell'economia non si spartisce mai, i poveri rimarranno poveri e i ricchi saranno sempre ricchi, perché se le elezioni servissero veramente a cambiare l'economia, la torta, la spartizione della torta, il potere economico, come la storia insegna, le abolisce le elezioni, come è successo in Spagna, in Cile. Ma lei è scettico sull'idea che possa esserci un cambiamento? No, le briciole, forte. Cambieranno le briciole. E tutti sono, ma che può dire quello che dice proprio perché sa che non cambierà niente, cambieranno le briciole, sono elezioni spettacolo solo per non far capire alla gente che la torta va spartita, ma questo succede anche in Italia, in tutta Europa. Non è che sia una novità, voglio dire, le elezioni, quando cambiano la sostanza il potere economico le abolisce. Grazie, buongiorno. Grazie addirittura, grazie Lucio da Verona per il suo intervento. Io voglio ricordare tra l'altro che lo scrutinio non è ancora concluso, ovviamente per via del fuso orario. In questo momento, in quanto a voti popolari, Barack Obama è a 60.594.000, McCain a 54.221.000, fanno 52% a 47%, quindi in termini di voti popolari non è una vittoria schiacciante, ma sappiamo che si vota stato per stato, lì si eleggono i grandi elettori stato per stato, e lì la vittoria schiacciante c'è, nel senso, scusate, sono 338 i grandi elettori per Obama, 163 quelli per McCain. Professor Teodori, ha sentito l'ascoltatore? In fondo non cambierà granché, dice, neanche con Obama. Insomma, mi pare che l'ascoltatore un po' così, pessimista, un po' abbia un'idea un po', sì, anche un così, po' non corrispondente dietrologo alla realtà di quella che è la realtà americana. Io dico, se c'è una cosa che si è confermata e si è consolidata con queste elezioni, è proprio il buon, ottimo funzionamento della democrazia americana, non soggetta a nessun potere di altro tipo e tantomeno al potere economico. Forse bisogna ricordare che sia Obama il vincente, sia McCain il perdente, sono stati due personaggi che sono partiti fuori e contro il sostegno dei grossi poteri economici. Obama ha raccolto una cifra straordinaria di dollari con ma li ha raccolti attraverso 2 milioni di contribuzioni che vengono dai singoli cittadini di un inferiore ai $200, e quindi questa è una straordinaria prova di democrazia. Quindi quella considerazione che faceva l'ascoltatore, questo professore, mi pare che sia proprio fondata per aria, qualcuno, insomma, che non abbia nessun senso. Qualcuno diceva, a riprova del fatto che Obama, scusate, ogni tanto in questa serrata battaglia me li confondo ancora, a riprova del fatto che Obama è più slegato dalle cosiddette lobby economiche. Qualcuno però ci ha detto e ci ha fatto notare, insomma, che anche Obama ha avuto legami con Goldman Sachs, con tutte quelle realtà che poi sono alla base della crisi economica attuale. Secondo lei Obama... No, io non credo che sia legato. Se si confonde, se si confondono due cose, si fa un po' di confusione. Vale a dire, per le elezioni, il finanziamento della politica negli Stati Uniti è un finanziamento di carattere privatistico, e questo finanziamento privatistico può essere fatto dalle persone, come dalle società, dagli enti, da chiunque, dalle persone fisiche, dalle persone giuridiche, purché sia trasparente, sia dichiarato con tanti di rendiconti e via di seguito. Se si vuol dire che Obama, nel momento in cui ha cominciato a essere un probabile candidato alla presidenza, ha cominciato a ricevere anche i finanziamenti di queste grosse strutture finanziarie, questo entra nella normalità del funzionamento della politica americana e del rapporto fra politica e denaro, ma tutto trasparente e tutto chiaro. Se si vogliono dire altre cose non stanno in piedi, soprattutto in questa elezione. Addirittura anche McCain è stato un personaggio che è stato molto avversato dai grandi gruppi economici, perché è l'autore di una serie di disegni e progetti di legge che non sono mai passati in congresso, con il quale si tendeva a regolare e a limitare il finanziamento dei gruppi economici alla politica. Quindi direi che queste elezioni sono proprio la riprova della autonomia e del buon funzionamento della democrazia elettorale americana. Allora, io darei un ascoltatore, Giacomo da Prato, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è abbastanza semplice. Come si pone nei confronti di quegli stati americani che hanno ancora una forma di giustizia, diciamo, medievale, qual è la pena di morte, e se può fare un cambiamento radicale in questo senso? Guardi Giacomo, purtroppo, io dico purtroppo perché sono molto sensibile all'argomento, come forse lei sa se mi segue, ma temo che la vicenda della pena di morte incida veramente pochissimo nelle elezioni americane. Questa è proprio l'idea di una percezione che abbiamo noi e di quello che invece è quello che succede negli Stati Uniti. Non lo so, ma credo che Barack Obama sia sostanzialmente favorevole laddove ci sono crimini efferati, eccetera. Professor Teodori, lei ne sa qualcosa in più su questo? No, non è tanto questo se è favorevole o contrario, e in che tipo. È che forse non tutti si rendono conto che la legislazione penale, e quindi relativa anche alla pena di morte, è una legislazione di carattere statale. Sì, certo. E che il Congresso federale e il Presidente federale non hanno nulla a che fare con abolire o non abolire, introdurre, rafforzare o non rafforzare pena di morte. Quindi è ogni Stato che decide autonomamente. Mentre questo... si poteva dire di Bush, da ex governatore del Texas, che sicuramente era una persona favorevole alla pena di morte a tutto tondo, non lo so io Obama che posizione abbia. Ma io credo che tendenzialmente Obama sia contro la pena di morte, anche perché appartiene a uno Stato, io adesso non vorrei sbagliare, l'Illinois, dove c'è la moratoria, dove c'è stata la... Dove sì, c'è qualche... praticamente non c'è stata più nessuna esecuzione. Sì, non solo il governatore dell'Illinois ha, diciamo, commutato un paio d'anni fa tutte le condanne a morte in ergastolo. Quindi tutto il discorso sulla pena di morte appartiene alla cultura e alla legislazione Stato per Stato, e quindi qualsiasi discorso più generale non ha senso. C'è solo una questione che riguarda l'ambito federale, cioè nazionale degli Stati Uniti, e sono le decisioni della Corte Suprema, perché le decisioni della Corte Suprema federale possono incidere sulla pena di morte, però la Corte Suprema ha fatto diverse sentenze sulla pena di morte, mai per abolirla, ma mai per limitarne in alcuni casi o in alcune condizioni. È solo in questa dimensione, cioè nella dimensione della Corte Suprema, che entra il potere federale, altrimenti si tratta sempre di poteri statali. Io vorrei andare da Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club. Allora, parliamo un pochino di ambiente, delle politiche energetiche. Abbiamo detto qualcosa nella prima ora, dicendo sostanzialmente che si può sintetizzare così: mentre McCain Biden era favorevole a un grandi investimenti nel nucleare, Barack Obama non sembra entusiasta sull'aspetto nucleare e aveva proposto un piano ambizioso, anche molto costoso, oltre che ambizioso, 150 miliardi di dollari per le energie alternative, solare, eolica, eccetera. Lei Silvestrini come la vede la vittoria di Obama su McCain dal punto di vista dell'energia? Cosa ci aspetta? Ma io credo che la questione del clima e dell'energia sia il settore, insieme a quello dell'Iraq, che vedrà un cambio più drastico rispetto all'attuale amministrazione. E in realtà le posizioni nuove sono diverse e riguardano innanzitutto la decisione di rientrare nella scena internazionale delle trattative sui cambiamenti climatici, che come sappiamo l'anno prossimo dovrebbero vedere la discussione sul post-Kyoto, e il fatto di avere un'Europa fortemente compatta per definire obiettivi quantitativi per tutti i paesi del mondo, e gli Stati Uniti che dopo 8 anni di assenza ritornano a fianco dell'Europa, rappresenta un cambio radicale che potrà forse consentire di avere anche Cina, India, Brasile con un atteggiamento decisamente più positivo. E all'interno poi ci sono delle decisioni che io credo cambieranno molto la faccia energetica degli Stati Uniti. E non sarà cosa da poco conto, per esempio ha deciso di puntare molto sulle rinnovabili, ma questi 15 miliardi di dollari all'anno, 150 miliardi di dollari, derivano da un meccanismo di cap and trade che è analogo a quello che c'è in Europa in questo momento, per cui le industrie non possono superare dei tetti, se li superano pagano delle sanzioni molto forti, ma a differenza dell'Europa, un parziale differenza dell'Europa, Obama propone che le industrie debbano pagare queste quote, e questo penalizzerà molto le centrali a carbone. Da queste entrate verranno fuori le risorse che serviranno per le rinnovabili. Quindi immagino che ci sarà un fortissimo sviluppo, che peraltro già è iniziato in California, delle industrie delle rinnovabili, e gli Stati Uniti riprenderanno rapidamente un ruolo di leader in queste tecnologie. Il nucleare avrà dei problemi, perché Obama ha detto sostanzialmente non chiudiamo le centrali esistenti, ma prima di farne nuove dobbiamo risolvere i problemi. Ecco, che ne pensa di questo aspetto? Voglio dire, quando per esempio in Italia si parla molto del ritorno nucleare, sappiamo che il governo italiano dice questo è il futuro, cancellare quella sciagurata referendum che ha tolto il nucleare e tornare al nucleare per toglierci dalla dipendenza del petrolio. Invece abbiamo un Barack Obama d'altra parte che dice certo ci sono tante centrali nucleari negli Stati Uniti, quelle non le dismettiamo, però non ne facciamo nuove. Il problema dei rifiuti, e peraltro c'è il progetto del cimitero di scorie di Yucca Mountain, su cui da 30 anni si stanno facendo studi e ricerche e così via. Questo di fatto significa il rilancio del nucleare negli Stati Uniti, ed è una scelta che avrà degli effetti su scala mondiale. Io credo che il risultato sarà una fortissima spinta nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica. Per esempio c'è una indicazione molto chiara rispetto ai consumi energetici degli edifici, fino ad arrivare nel 2030 a non poter realizzare edifici che siano carbon neutral, zero emissioni, e questo significa cambiare completamente il modo con cui si progettano gli edifici. Lo stesso per quanto riguarda le automobili, 1 milione di auto plug-in elettriche. Cioè io credo ci sarà una spinta molto forte sulle fonti rinnovabili, efficienza energetica, rientro nella scena internazionale sulle questioni climatiche, e quindi dal punto di vista complessivo un attore che peserà molto e che probabilmente consentirà mettere un tassello nella battaglia contro il riscaldamento del pianeta, che sarà decisivo. Beh, questo è un aspetto interessante, cioè sapete che c'è stata tutta la discussione anche all'interno dell'Unione Europea, in cui l'Italia si è un po' disallineata dicendo dobbiamo ritardare un attimo i parametri di Kyoto, dobbiamo avere qualche tempo in più perché altrimenti anche tutte le nostre industrie sarebbero in difficoltà. Invece lei dice che, e anche dicendo che insomma ci sono Cina, India, Stati Uniti che appunto non rispettano questi parametri, e invece lei dice che Obama cercherà di riportare gli Stati Uniti all'interno di questo discorso, insomma di una maggiore rettitudine dal punto di vista ambientale. No, l'ha dichiarato esplicitamente, e questo cambia totalmente lo scenario, perché come dicevo l'Europa è stata accusata di essere una bell'anima solitaria, perché tanto gli Stati Uniti non sarebbero tornati in gioco e così via. Il fatto che gli Stati Uniti rientrano in gioco, l'Australia l'ha fatto qualche mese fa, fa sì che a questo punto si possa fare un piano ragionevole, perché giustamente i paesi in via di sviluppo, la Cina e l'India, dicono: ma perché mai dovremmo contenere la crescita delle emissioni noi, se gli Stati Uniti, principale responsabile fino all'anno scorso, perché adesso è il principale responsabile della Cina, si tirano fuori? Il fatto che ciascuno fa la sua parte, l'Europa l'ha fatta decidendo unilateralmente di ridurre il 20% al 2020, e devo dire la posizione italiana è totalmente emarginata, e devo dire che non abbiamo fatto una bella figura a livello internazionale, tanto più che adesso, appunto, con la ventata di Obama, tutte queste politiche riprenderanno fortemente vigore. Mm. Io credo che ci sia un'ultima osservazione interessante, che era già prima della venuta di Obama, cioè quando hanno fatto il famoso bailout sulla situazione finanziaria, il Congresso ha inserito una norma specifica per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, che era attesa lungamente e via via era andata slittando. Ecco, il collegare il risanamento economico con il rilancio di tecnologie che guardano il futuro, come le fonti rinnovabili, secondo me già indica una scelta completamente diversa rispetto a quella che purtroppo l'industria italiana fino adesso fa. Cioè, da noi è mancata la comprensione di quello che sta succedendo, della radicalità dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello internazionale. E per questo la nostra industria è indietro, perché non ha capito la nostra industria e il nostro mondo politico. Manca di visione. Allora, un ascoltatore poi, al quale faccio rispondere al professor Teodori, così lo libero. Claudio, dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. A lei, buongiorno ai suoi ospiti. Ma prima volevo fare due considerazioni velocissime prima di fare la mia domanda. Descrivere Obama come cioè che sia contro la pena di morte, mi sembra non sia giusto, perché è un abortista convinto, come è un abortista convinta la Palin. E due, che non si sia appoggiato a delle lobby. Sull'aborto forse ha preso un abbaglio, cioè la Palin è un anti-abortista forse. Ma è per i bambini Down, da quello che mi risulta. È un anti-abortista? La Palin per i bambini Down non mi sembra che sia un anti-abortista. Comunque, ho letto male sul foglio. Ha un figlio. È contro l'aborto, voglio dire. Ha un figlio Down, peraltro, la Palin. Quindi. Sì, ma si era. Forse ho letto male ha un figlio Down, peraltro. È proprio il massimo del. Comunque, dica, vada avanti. Ok, e che non si sia appoggiato Barack Obama a dei gruppi economici che lo abbiano aiutato a diventare presidente, mi sembra strano. Vabbè. Cioè, avrà avuto i suoi aiuti. Faccia la sua domanda. La mia domanda è questa, e comunque mi piace Barack Obama. La sinistra italiana è sempre stata anti-americana. Con questo presidente, se questo presidente mostrerà i pugni duri e i muscoli con il terrorismo, la sinistra italiana ritornerà cosa a essere anti-americana? Professor Teodori, risponda all'ascoltatore, così da libero. Ma guardi, non bisogna mai essere generici e generalizzanti. Allora, la sinistra italiana è stata sempre anti-americana. Io sarei un po' più articolato nel dire che delle tendenze anti-americane più o meno forti, più o meno sotterranee, sono esistite fortemente all'interno della sinistra, ma non hanno certo abbracciato tutta la sinistra. Sono esistite all'interno della destra, ma non hanno abbracciato tutta la destra. Sono esistite all'interno del mondo cattolico, ma non hanno abbracciato tutto il mondo cattolico. Quindi bisogna essere un po', quando si fanno queste affermazioni, bisogna essere un po' più specifici. Che cosa accadrà se Obama farà quello che farà? Intanto stiamo ad aspettare quello che farà Obama, perché non sappiamo che cosa farà, non sappiamo tutti quanti i programmi elettorali, sono, come sono sempre nelle elezioni americane, abbastanza generali, poi di fronte alla realtà ci possono essere degli atteggiamenti molto diversi e molto anche opposti, e quindi è molto difficile ipotizzare se e vedere che cosa accade. Sì. Certamente i sentimenti Quello che invece si può dire, diciamo, per concludere un po' sulla questione dell'anti-americanismo e dell'antipatia rispetto agli Stati Uniti, che è molto cresciuta con la presidenza Bush in tutto il mondo, il sentimento dall'antipatia all'avversione all'anti-americanismo è cresciuto dappertutto, che probabilmente con l'elezione di Obama l'immagine degli Stati Uniti riprenderà una sua forza, una sua legittimità. Quello che poi accadrà in futuro nessuno lo sa, però certamente questa elezione così, di un personaggio così singolare, diciamo, fa scendere il tasso di antipatia e di distanza degli Stati Uniti in Europa e nel mondo. Allora, io ringrazio il professor Teodori e ringrazio Gianni Silvestrini per essere stati con noi. Nell'ultima parte, fino alle 11, ci concentreremo un po' sulla politica estera, anche militare, insomma, sentiremo anche cosa ha detto Obama, molto interessante dal primo discorso dopo la vittoria. Iraq, Afghanistan, Iran, qualcuno pensa arriva il grande cambiamento. Cercheremo di capire in quest'ultima parte cosa può succedere nella politica estera americana, ma che insomma ci riguarda da vicino, no? L'Iraq, l'Afghanistan, l'Iran e quant'altro. Voglio salutare l'onorevole Gianni Vernetti del Partito Democratico, che è stato sottosegretario agli esteri nel precedente governo. Benvenuto Vernetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Così come voglio salutare Gianandrea Gaiani, che è esperto militare e direttore di Analisi Difesa. Io voglio ricordare analisidifesa.it. Benvenuto Gianandrea, scrive anche sul Sole 24 Ore. Allora, un'ascoltatrice, Gabriella, dalla provincia di Cosenza. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei semplicemente fare alcune riflessioni riguardo all'impatto che potrà avere questa elezione sulla storia del mondo, secondo me, perché l'America, come ben sappiamo, è sempre stata, diciamo così, il motore che ha spinto avanti diciamo, la politica mondiale. In questo caso un presidente nero con radici afroamericane, secondo me, potrebbe aprire grandi prospettive di sviluppo delle relazioni internazionali su basi paritarie per quanto riguarda i popoli non di razza bianca. I bianchi hanno sempre un po' dominato, hanno sempre fatto nella storia, sappiamo bene, i gravi e i grandissimi guai che hanno combinato nei paesi non europei e anche europei alcune volte. Può essere, secondo me, una riflessione interessante da studiare. Va bene Gabriella, onorevole Vernetti, prima di sentire che cosa ha detto Obama, interessante un aspetto del nuovo del suo primo discorso da vincitore, non le sembra un po', giusto, io lo dico per essere un po' controcorrente, un po' esagerata l'aspettativa di Gabriella, dire, visto che è un afroamericano, una nuova aspettativa, nuove... Secondo me sì, assolutamente esagerata, anche perché non è vero che i bianchi abbiano combinato chissà quali guai nel mondo. Io credo che Obama sia veramente il candidato post-etnico, cioè un vero candidato, un vero uomo americano globale, cresciuto in Indonesia, vissuto nelle Hawaii, di madre bianca e di padre nero. Insomma, addirittura all'inizio di questa lunga corsa, incredibile campagna elettorale di 21 mesi di Barack Obama, veniva persino guardato con diffidenza dalla comunità afroamericana, perché non lo considerava, come dire, una... abbastanza nero. Sì. E questo forse anche un aspetto abbastanza eccezionale delle caratteristiche dell'uomo, che ha saputo veramente unire questo paese. Cioè la vera novità è che Obama è riuscito a portare a costruire una mobilitazione senza precedenti, a fare la più grande raccolta fondi della storia, 1.600.000.000 di dollari, a mobilitare giovani, insomma, a fare leva, insomma, a riuscire a dialogare con quel ceto medio americano e con l'America profonda. Quindi io credo che, insomma, dipingerei diversamente questo nuovo presidente. Allora, vogliamo ascoltare che cosa ha detto Barack Obama nel suo lungo discorso, ma una parte relativa, soprattutto sentiremo a un messaggio molto chiaro anche di politica internazionale, così poi con Gianandrea Gaiani cercheremo di capire a livello militare cosa potrà succedere. As Lincoln said to a nation far more divided. Come disse Lincoln a una nazione ben più divisa della nostra, siamo amici, non nemici. Le passioni che possono averci allontanato non devono spezzare i nostri legami d'affetto. A quegli americani di cui devo ancora guadagnare il sostegno, non ho avuto il vostro voto stanotte. Ma sento le vostre voci. Ho bisogno del vostro aiuto e sarò anche il vostro presidente. E a quelli che ci guardano da altri paesi, da palazzi e parlamenti, a coloro che ci ascoltano dalla radio di paesi lontani, dico: l'alba di una nuova leadership americana è iniziata. A quelli che vogliono distruggere il mondo, diciamo: vi distruggeremo. A quelli che vogliono la pace e la sicurezza, siamo con voi. E a quelli che si chiedono se ancora brilla la fiamma della torcia della libertà, stanotte vi abbiamo dato prova che la forza di questo paese non viene dalle armi o dalla ricchezza, ma dalla forza dei nostri ideali. Democrazia, libertà, opportunità e speranza. Allora, Gianandrea Gaiani, che cosa ci aspettiamo per l'Iraq, per esempio? Lasciami cominciare con una battuta. Sì. Questo discorso mi ricordava Bush qualche anno fa. No, appunto, voglio dire, a quelli che ci vogliono distruggere, vi distruggeremo, insomma. Sì, è abbastanza... credo che al di là dei slogan che hanno fatto sull'Iraq, che hanno reso importante, hanno dato slancio alla campagna di Obama, soprattutto nelle primarie contro Hillary Clinton, beh, credo che cambierà ben poco. Già c'è un accordo ormai quasi ratificato, si discutono i dettagli tra il governo iracheno e gli Stati Uniti per la permanenza delle truppe americane, sempre decrescente, ma comunque una permanenza che continuerà fino alla fine del... salvo che gli iracheni non ne chiedano un prolungamento. Lo stesso Obama negli ultimi tempi aveva detto: sì, ci ritireremo gradualmente con responsabilità, mantenendo una forza militare in Iraq per qualunque evenienza. E quindi credo che sull'Iraq la strada tracciata dall'ultima fase dell'amministrazione Bush verrà percorsa, salvo imprevisti, da Obama, anche perché quella guerra al momento sembra vinta. Solo due province sono ancora creano ancora problemi su 18 dell'intero paese, la minaccia terroristica permane, ma non è più in grado di minacciare la stabilità politica dell'Iraq. Però il fronte invece che si profila, cioè noi avevamo in apertura anche il ministro Frattini alle 9 a dire l'Afghanistan, al quale Obama ha detto, e anche Frattini ha confermato, probabilmente ci sarà una richiesta di maggiore impegno da parte dell'Europa. Sarà quella la nuova, il nuovo fronte di guerra al terrorismo globale, l'Afghanistan? Ma diciamo che il fronte afghano ha sempre avuto un impatto minore rispetto a quello iracheno sull'opinione pubblica americana. I motivi sono anche facilmente comprensibili dal numero dei caduti. Dal 2003 a oggi 4.200 americani morti in Iraq, dalla fine del 2001 a oggi neanche 600 soldati americani morti in Afghanistan. Però è vero che in questo periodo, proprio anche perché l'Iraq, in Iraq la vittoria è stata quasi conseguita e in Afghanistan no, questo fronte è tornato alla ribalta. Proprio Obama in campagna elettorale ha parlato di rinforzare quel fronte con almeno altre due brigate da combattimento, una linea condivisa da Bush, che ha già attuato un piano tramite il segretario alla difesa Gates, che probabilmente, così girano, dicono le voci in queste ore, rimarrà. Obama riconfermerà, a conferma appunto ulteriore di una continuità in questo settore, almeno con l'amministrazione precedente. Quindi rinforzare l'Afghanistan è già un must, è già un obiettivo definito da questa amministrazione, quella Bush, e credo che, anzi Obama l'ha già annunciato mesi fa in campagna elettorale, anche qua in Europa chiederà agli europei di mandare non solo più soldati, ma di rendere i soldati che sono schierati in Afghanistan pronti al combattimento. Oggi sappiamo che ci sono ben 70 limitazioni poste per lo più da governi europei, incluso anche quello italiano, all'impiego bellico delle truppe schierate in Afghanistan. E Obama ci chiederà un maggiore impegno, di togliere queste limitazioni e farci combattere come combattono gli anglosassoni. Onorevole Vernetti, lei che è stato sottosegretario, vede una rottura nel messaggio di Obama, oppure insomma condivide l'idea che non cambierà tanto? Addirittura Gaiani ha detto sembrava Bush parlare 4 anni fa. Forse lei la vede un po' diversamente. Io credo che ci sarà, come inevitabile sia, una buona dose di continuità con la seconda amministrazione Bush, che intanto ha portato numerose correzioni di rotta rispetto alla prima amministrazione Bush. Ma certo, quello che io credo che però ci saranno alcuni anche elementi di forte novità. Voglio fare qualche esempio anche poi che con ricadute soprattutto sull'Afghanistan. Io credo che il rapporto tra USA ed Europa avrà un grande salto di qualità, cioè nuovamente Obama punterà tutto sulla cooperazione, sulla partnership strategica e quindi sulle relazioni, sulle relazioni transatlantiche come perno della politica estera americana. Questo vorrà dire un rilancio della NATO come strumento, come alleanza politico-militare per intervenire in aree di crisi, ma però anche più cooperazione, più partnership, ma anche più responsabilità. Io credo che l'amministrazione americana ci chiederà più risorse per l'Afghanistan, più soldi, più fondi per la ricostruzione, più truppe, non soltanto sposterà due brigate di combattimento dall'Iraq, ma farà dell'Afghanistan, come dire, una priorità della lotta al terrorismo internazionale. Io condivido totalmente quanto diceva Cajani, verrà richiesto ai soldati europei di condividere le stesse sfide dei soldati americani. Insomma, mi sembra di capire che non c'è quindi questo gran messaggio di rottura, come qualcuno vede insomma in Obama un nuovo personaggio che potrebbe portare a un nuovo equilibrio mondiale. Invece insomma mi sembra di capire che anche lei condivida il fatto che anzi ci chiederà più impegno soprattutto in Afghanistan. Facciamo così, sentiamo le informazioni sul traffico, poi vado da Gabriele da Biella, l'ultima parte poi di questo Viva Voce oggi eccezionalmente di due ore, cercheremo di capire anche l'Iran, no? Cosa succede in questo paese che sappiamo, insomma, cerca, o dicono qualcuno, il nucleare. L'Iran dice il nucleare lo vogliamo solo a livello civile. E insomma, anche quella è una grande sfida, una grande aspetto sull'agenda internazionale che Barack Obama dovrà fronteggiare. Gabriele da Biella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo fare una piccolissima considerazione controcorrente. Sì. A me poco interessa chi abbia vinto, se Obama o McCain, e trovo anche francamente molto stucchevoli queste aspettative nei confronti di Obama, anche perché gli Stati Uniti bisognerebbe considerarli come una superpotenza sul viale del tramonto, e il prossimo presidente americano non sarà niente altro che l'esecutore fallimentare di questo fallimento. Addirittura. Una nazione che ha quasi tutto il proprio debito estero nelle mani della Cina, dell'India, che ha la sua finanza nelle mani dei fondi sovrani dei paesi arabi. Solo noi europei possiamo ancora pensare che l'inquilino della Casa Bianca possa essere l'uomo più potente della terra. Gabriele, no, va bene, la ringrazio per la sua considerazione, un po' dura, mi sembra di capire, però è la sua considerazione, benvenuta. Andiamo a Milano da Susan, giusto Susan? Sì, buongiorno. Sì, giusto, ciao, sono americana. Oh, benvenuta. Finalmente. Chiedemi quale che volete. No, ma comunque volevo dire un paio di cose ascoltando quest'ultima persona, poi ti cambia l'idea. Cioè, questa è la differenza tra l'americano e l'italiano, gli europei. Vabbè, d'accordo, voi avete una storia incredibile, lungo, che ti fa quasi, scusa la grammatica, contorsione, cioè nel modo di vedere le cose. Noi siamo magari, va bene, ok, giovane, semplice, ingenue, tutte queste cose qua, però in noi c'è la speranza, c'è... Oh, speriamo che questa persona riesca veramente a fare qualcosa. No, cioè, lui ci ha portato un messaggio di forza, pace, speranza, è vero sogno americano. Cioè, è bellissimo questo uomo che è venuto da niente, che si è fatto, cioè è andato, si è istruito in una maniera incredibile, che è diventato presidente. Oh, cioè, più grandi di così è stata la storia, al di là di essere afroamericano. Cioè, noi adesso, io vengo da famiglia repubblicana, che sia chiaro, una promessa. Mia zia conosceva il presidente, ha fatto lotte per tutti i presidenti, ha 92 anni, viaggia ancora, viene qua a trovarmi. Incredibile. Questo, cioè, io ho votato democratica, cioè, non dirle alla zia, però io ho votato democratica perché ci vuole un cambiamento di quello che c'era di prima, e vedo in questo uomo sì, un cambiamento, un'idea di cambiamento. Speriamo che sua zia non abbia sentito, però non gliela perdonerebbe questo tradimento repubblicano. Susan, senta, no, ma l'altra cosa bella è che come McCain comunque anche sta dietro l'uomo, cioè si spera che le persone americane, anche se erano repubblicane che hanno votato McCain, anche loro stanno dietro l'uomo, perché è così. Non è che fanno pettegole, fanno discussione, provano a buttarlo giù. No, e lui è lì per 4 anni, vediamo in questi 4 anni cosa che riesce a fare. È come ha detto McCain, è anche il mio presidente. Susan, io la ringrazio soprattutto per questa... per carità, non voglio usare paroloni, ma lezione di ottimismo, insomma, che ci ha dato, perché sennò gli ascoltatori che dicono ma non cambia niente, ma di qui, invece la politica è anche così, voglia di cambiare, voglia di mettersi in gioco, voglia di testare nuove persone, magari poi tra 4 anni diremo che Obama ha fallito totalmente, insomma, però mettiamola alla prova, è un vento di cambiamento, è un qualcosa di nuovo, e viva, insomma, no? Gianandrea Gaiani e Vernetti, l'Iran, Gaiani, cosa succede con l'Iran, i rapporti tra Casa Bianca e Teheran con Obama? Ma Obama, dopo un'iniziale apertura a un dialogo con il regime iraniano, che peraltro non ha mai dato segnali di voler negoziare, e bisogna dirlo, è molto diviso al suo interno, forse Ahmadinejad verrà abbattuto dall'interno, dall'opposizione interna al suo paese e non tanto dalle pressioni occidentali statunitensi, ma al di là di questo, proprio in un dibattito, in uno dei 3 dibattiti con McCain, Obama ha fatto un discorso poco multilaterale sull'Iran, dicendo che il nucleare iraniano non è accettabile per gli Stati Uniti perché potrebbe finire in mano ai terroristi, un'arma nucleare iraniana, e che non verrà accettato quando lui sarà presidente, quindi oggi possiamo dire da presidente non accetterà all'ONU di porre veti su un'eventuale azione contro una potenza nucleare iraniana. Quindi, insomma, un Obama che anche sull'Iran, almeno nelle ultime dichiarazioni pubbliche, ha mostrato il pugno di ferro, lo stesso pugno di ferro, anzi forse ancora di più di quello che ha mostrato in questi mesi l'amministrazione Bush. Vernetti, concorda, insomma, che l'Iran è comunque un dossier molto delicato, uno di quei dossier che si troverà sulla Casa Bianca? Assolutamente sì, però Obama l'ha detto con grande chiarezza e l'hanno ripetuto tutti i suoi esperti di politica estera in questi giorni: l'America non può tollerare un'arma nucleare in mano al regime iraniano. Io credo che l'America farà un grande sforzo per tentare di separare la Siria dall'Iran e quindi per favorire in ogni modo un accordo di pace fra Siria e Israele. Questo è un fatto, credo, strategico, perché si eliminerebbe quella continuità territoriale fra gli Hezbollah, che oggi dominano nel sud del Libano, tra l'altro in pericolosa contiguità con la nostra missione UNIFIL nel sud di quel paese, e quindi per tentare di coinvolgere la Siria in un percorso di pace con Israele, in un percorso di stabilizzazione. Io credo che l'atteggiamento americano nei confronti dell'Iran sarà rigoroso da questo punto di vista. Senta, e invece c'è tutto l'aspetto Medio Oriente più legato a Israele e palestinesi. Ora, non so se come Barack Obama accoglierà la dichiarazione di Hamas, che ha detto l'occasione per un cambiamento dopo che George Bush ha distrutto i rapporti col mondo esterno. Crede che che farà piacere a Barack Obama il plauso di Hamas per l'elezione? Credo, essendo un'organizzazione terroristica, non fa piacere a nessuno, però c'è un fatto da questo punto di vista, che se da un lato, come dicevamo, Barack Obama inevitabilmente avrà elementi di continuità con le precedenti amministrazioni, dall'altro però evoca un grande messaggio di cambiamento, ma anche per il fatto di essere un leader globale, per la sua storia personale, per questo messaggio di forte speranza. Cioè, io non sottovalutiamo l'impatto psicologico che può avere nella comunità globale, come dire, una presidenza con queste caratteristiche, fortemente rinnovato, un leader giovane. Io credo che questo può aiutare i processi di dialogo per la risoluzione delle crisi, quasi un fatto più psicologico che magari di contenuto. Come ripeto, l'amicizia e l'alleanza fra l'America e Israele non muterà, è stata confermata in tutti i passaggi di questa campagna elettorale. Come le dicevo, io credo che l'amministrazione americana riprenderà con slancio una forte iniziativa sul Medio Oriente, a cominciare dal tentativo di sganciare la Siria dall'Iran e raggiungere un accordo di pace con Israele, e a sostenere Abu Mazen e i moderati in Palestina. Staremo a vedere. Io allora ringrazio Gianandrea Gaiani e Gianni Vernetti. Voglio ricordare in conclusione, come già detto, che, insomma, noi abbiamo ascoltato qualche voce, ma tutte le voci di tutta la notte americana, le potete, sono state raccolte, sono sul sito radio24.it, i discorsi di Obama, di McCain, le interviste, insomma il sunto di tutta questa nottata elettorale lo trovate sul sito con i voci e i suoni della vittoria o della sconfitta americana. Barack Obama, dunque il 44esimo presidente degli Stati Uniti, ci fermiamo qui. Ringrazio Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Matè in regia. Ci ritroviamo domattina alle ore 9. Viva voce!